accidentati, ho portato la mia anima cercando direzione, provando a non cadere. L'instabile equilibrio del suonatore mi porta sempre a correre dietro alla convinzione che voglio vivere così, sempre sospeso tra terra e cielo, sognando di vedere il mondo come un gabbiano in volo. Se sto correndo solo dietro a un'illusione, finché lentamente ogni dubbio svanisce, fiorisce l'idea che ne vale la pena giocarsi la carta ancora. Io voglio vivere così, sempre sospeso tra terra e cielo, sognando di vedere il mondo come un gabbiano in volo. E voglio camminare qui su questa terra, voglio camminare ed imparare a seminare e poi raccogliere. Verso il cielo.